mattino ho l'odio in bocca. Se mi sveglio e penso a noi, è un sentimento che mi tocca. Come un prete fa con voi, alcune cose me le leggo al dito medio, altre non le dico, faccio il serio. Perché si fa peccato a pensare male, ma non insultarti è immorale. E non l'ho fatto apposta, scusa per la risposta, se ti brucia in fila una supposta. Perché col lato dolce ci ho fatto colazione, col caffè più amaro che punizione. Divina, indovina, oggi chi viene a cena? Chi non muore si rivede, mi fate pena. Con quell'origami, quel fiore tra le mani, faccio mamma non mamma e straccio legami. Vado, mi ingazzo e torno, da tempo è questo, il mio buongiorno, il mio fuck sta per fuck che muoia, e gli regalo l'hashtag, ma è una gioia. Vado, mangazzo e torno, già fazzi più un buongiorno. Fuck il mio fuck sta per fuck che muoia, e gli regalo l'hashtag, ma è una gioia. Buongiorno per tutto iurne, se qui stai in un buongiorno, guarda t'atturne. Qua chi te vuole bene, te vuole fa fora, a cominciare dei genitori. Per quando stai sopra cazzi, io saccio che ti piace, fanno te godemo, repuso in voce. Perché se apri la bocca, fazzo schitto danno, ma non posso stare zitto tutto l'anno. Perciò picchia e butta a casa, so vaffanculo, take away. Chi sti chi ti ammuta, una casa, chiama Just Eat, io prenoterei. Che qua chi sparta, over, a me chi parte, e iso brava, punta e basta. Sorridi cheese, sembra che t'hanna cheese. Tu capisci che I don't speak English. Vado, mi ingazzo e torno, da tempo è questo, il mio buongiorno, il mio fuck sta per fa che muoia.